c'è una sola ragione per cui sono tornato, per cui sono tornato. Far vibrare il mio cuore con tutto il creato, salire ai tuoi piedi, chinare il mio capo. La più bella canzone per esserti vicino, diverse dimensioni, tornare un po' bambino. La più bella canzone per essere di nuovo vestito di tua ombra, di luce coccolato. Indicami la strada, seguirò i tuoi passi, la tua danza infinita, la tua luce dorata. Ascolta la mia preghiera, tu angelo mia guida, vai che possa vedere i tuoi occhi, la tua vita. È il tempo di cambiare, far crescere coscienza, dare un nuovo senso a questa mia povera esistenza. Dammi le tue chiavi, ascolterò i tuoi sguardi, come un bruco in farfalla, nutrirò tutti i miei versi.